esperanza en fondo al cuore. Quizás se mamerá, quizás se mamerá, quizás se mamerá. Mi piace tanto e non glielo so dire. Ma quando capirà, chissà, ma quando capirà, ma quando capirà. La incontro e il viso cambia di colore. Che cosa penserà di me, che cosa può pensare? Se mi vuol bene un dì le chiederò, le chiederò. Lei mi dirà di sì, chissà, o mi dirà di no. Così rimango a sognare e non le parlo d'amor. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Così rimango a sognare e non le parlo d'amor. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Ormai ci sorridiamo nel passare, e sempre sola ma non so se libero avrà il cuore. Diventa rossa rossa e penso che è timida anche lei, chissà, più timida di me. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Che ho nel cuore un sogno dell'amor, speranza che ho nel cuore.